più superiore. Però questo non è sempre preciso, sempre 8001, dai. Sempre 8001 è l'ha fatto più o meno la stessa mano, è fatto dalla stessa mano, stessa persona. Bellissima radio, veramente. Questa mi sembra più spinta per oggi. E attenzione, perché da casa è diverso, dall'antenna di casa la radio, dal camion cambia, c'è una differenza enorme, perché? Ciao, lo fai ascoltare domani mattina, se tu monti dal camion, così ti do la differenza. Pure il tasto. Sì, no, c'ho l'altro in camion, adesso per il momento non ho piatto, questo è troppo lungo, no. Tengo provvisorio l'altro, dai, è questo, non lo so, tengo un po', me lo tengo qua, dai, me lo tengo a casa e vediamo un po', però voglio mettere al minimo, cavolo, voglio metterlo al minimo, vediamo un po' al minimo. Ora così, togliamo anche il pippi, se no ti faccio dei timpani. Ecco, il pippi non c'è più, giusto? Ma è buona anche così, dai, qua siamo a 3 watt adesso, 3 watt. Una curiosità, però. Sì, cavolo. Allora, 3 watt se ne va quasi i picchi. Aspetta che spostiamo a 100, prego, se non quanta manco lo dice. Sì, cavolo. 22 watt. No, 3 watt è importante bianca. Si suga. Una bomba enorme. Infatti ci vede il dubbio perfetto, perché con questa radio mi accorgo, quindi segnale 9-10 di portante Monza e poi vai a 9-20 passato, 9-22, 9-23 di picco di modulazione, quindi la potenza c'è sul picco massimo senza problemi. Con la radio puoi tenerla leggermente anche più alta, come non la radio, e dare un po' il pena di tonalità, ecco, e così vediamo come si comporta. Puoi anche tenere il pipì inserito, non disturba, o lui. Guardi, e c'è il pipì che è chiuso, la radio è chiusa. Guarda, adesso ti dirò, adesso ho aperto la radio, guarda, ho aperto tutto il pipì, guarda la scena, sempre con quei 3 watt di ricorso. Caspita, bellissima, bella radio, ci ha lavorato bene il dottore, bella. È positivo, però così è troppo, invece, vedi, io me la chiudo, così, la radio la chiudo un po', è più bella, più cosa secondo me. Aumenta anche la radio contemporanea, ti dà molto più chiara. Vedrai che quando smorzi, non so se tu ti stai ascoltando in cuffie e sei al contrario. Io ti ascolto molto meglio di tonalità quando tu sollevi la potenza, mentre invece quando lo abbassi rimane appena appena smorzata. Niente da dire, per carità, va bene lo stesso. Però secondo me è più alla tonalità molto più chiara quando mi dibatte, te ne sei accorto tanto. Ehi, è vero, ma si conferma, è vero. Sì, è proprio così. Lo smetteremo un momento. Era perfetta così, vedi un po', così aumentato com'è. È più chiara la modulazione, più presente, ma non c'è bisogno di metterlo al massimo. Lo metti a metà e quindi compensi anche con la modulazione e ti tieni la potenza dei lati intermedi, intanto c'è il picco massimo che se ne va sempre a 22-25. Lo metti anziché a 3 watt, lo metti a 5 watt, 8 watt. E fai un picco di modulazione intorno ai 20 watt, quindi è più che sufficiente. Così ti orai e non sale parecchio. Sì, madonna, sale. Va bene, che va bene, le prove le abbiamo fatte. Ecco, è andato ecco. Entusiasmo, poco rulla. Ci tiene l'elicottero, poi l'elicottero la ginaga. Più calmo, più